Il secondo enigma è nascosto tra le ceneri della Fenice. Lì giace una piuma iridescente, ma solo chi padroneggia la logica potrà riconoscerne il valore. Il codice che la protegge si basa su proposizioni e connettivi logici. Vi spiego come funziona. L'operatore OR, oppure, restituisce vero se almeno una delle condizioni è vera. È come dire, puoi accedere se hai la chiave oppure se la porta è sbloccata. Basta che una delle due sia vera perché il passaggio si apra. Ora immaginate, la condizione A è vera. Il fuoco è ancora acceso. La condizione B è falsa. La fenice ha già lasciato il nido. Qual è il valore di A OR B?